YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, la terza ora del sabato del villaggio, questo sabato che corre, corre veloce. Terza ora che si trasforma in RadioTube. Buonasera, sì, Daniele. Siamo qua. Ciao. Chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola. In coro. Bella questa puntata perché conosco gli ospiti ma non conosco la scaletta. Perché ti sei così appassionato al Grande Fratello? No, io mi sono appassionato moltissimo alla vicenda. Dopo che è successa quella cosa brutta che non ne parliamo più perché è meglio. No, mi sono appassionato a questo fatto di Bettarini. Com'è che un uomo in una casa, cioè, si comporta come una star particolare, cioè non nega alcuni tratti di un certo tipo di maschio. Eppure le femmine. Eppure, esatto, stavo per dire la stessa cosa. Eppure, quindi, come dire, forse ho sbagliato tutto nella vita. Prendi cioè nota. Bisogna, non lo so, se lo contengo. Certo, poi bisogna avere quel fisico, quella simpatia, probabilmente una serie di altre cose. Io non l'ho mai visto dal vivo, ma credo che sia abbastanza così d'impatto. Non l'hai mai visto tu? No, non l'ho mai visto dal vivo, ma fisicamente credo che sia, si nota, un uomo che tra l'altro abbastanza... ce l'avrà qualche anno anche lui, non saremo così distanti di allora età. Facciamo una cosa, io controllo, c'è un triangolo tra... controllo, perché cosa è successo in questa settimana nella puntata del Grande Fratello VIP di lunedì? Antonella Mosetti, canale 5, Antonella Mosetti ha origliato qualcosa che si stavano dicendo chiusi in una stanza Valeria Marini e Stefano Bettarini. Ne avevamo un po' parlato forse, ma sentiamo cosa è successo in diretta, ecco qua. Antonella, tu hai sentito tutto, sei andata con l'orecchio attaccata alla porta. Qui le cose così non ci sono, quindi quando ce n'è una la viviamo tutti. E che hai sentito, che hanno detto? E che era enorme. Scusate, non mi hai mai detto quelle parole. Ma tu. No, spieghiamo dunque. Allora, noi ci facciamo i massaggi e tutto quanto, e facciamo anche che ne so, una cosa. No, è vero, ha ragione, porta ancora le conseguenze, Bettarini. Io non l'ho mica capito cos'era, altissimo. Non l'ho mica capito poi alla fine cos'era, cioè di cosa stavano parlando, l'hanno lasciato nel secondo me non è vero. La povera Valeria Marini a cercare di spiegare aggravava sempre perché diceva situazione. No, niente di che, noi ci facciamo i massaggi. E l'altra persona che non ho capito, forse era la Mosetti. Sì, la Mosetti, quella che origliava. In questa casa non succede mai nulla. Ma come non succede mai nulla? Vabbè, che sono sempre niente, lì a parlare di queste chiusi, cose. Allora si fanno i massaggi. Vabbè. Comunque Bettarini no, è giovane del 72, È giovanissimo, ma io di più e tu pure. Non di tantissimo, no, nel senso che Totti è del 76. Gioca ancora, quindi non è proprio tanto. Che brava Ilari, ma quanto è brava. Perché? Così, è perché brava, no? Perché che adesso conduce, tra l'altro, il link era per quello, cioè. Perché l'hai sentita, era proprio bella tonica, lei è proprio brava. Tra l'altro, Valeria Marini sta così uscendo in maniera molto tenera. Simpatica, sì, ma è sempre stata simpatica. Sì, e io ho scelto un altro audio di Valeriona. Povera Valeriona, nazionale. Eccola qua. Mi sento molto sola. Mi manca l'affetto tanto, manca l'amore. Allontano tutto questo con l'ironia, le risate. Sai, però io voglio un figlio, cioè la cosa che voglio, desidero più un figlio. Ecco. Cara. No, vedi, i reality tu li puoi alla fine ovviamente criticare, perché ovviamente essendoci l'altro, il basso, si vola alto, si vola basso. Però poi alla fine qualcosa di umanità, esatto, viene fuori, come qualcosa della piace, realtà viene fuori. Questo mi piace, insomma. Io sono team Valeria, le due che mi piacciono di più sono Valeria Marini e Le Noir. Comunque Le Noir fantastica. Le Noir fantastica e Valeria Marini tenera, ecco, a me ha toccato un po' questa sua. Mi piace così, questa partenza così pop sul Grande Fratello. Allora c'è qualcosa di colto? Allora, no, vorrei parlare di esteri. Ecco, parliamo di esteri. Allora, ti faccio sentire un pochino di un video che ho trovato su YouTube, girato da questo ragazzo che si chiama DC Fred e che si trova appunto a Washington DC. Dove c'è Obama, Mr. Obama. Era lì che guardava Matteo, possiamo dirlo per la par condicio? Non lo so, facciamolo dire a lui, lo facciamo dire a DC Fred. Ecco qua. You won't believe how some of these people are dressed. Hello, it's a state dinner. George Armani e Cal. Senti, che dice Giorgio Armani, cioè lui è lì fuori dal passaggio. Tra l'altro c'è questo ragazzo che sta suonando il violino e lui dice: ah, guarda, sta arrivando Giorgio Armani. Poi gli altri non li riconosceva granché, e soprattutto ha preso il premio, no no, poi ha detto Prime Minister eccetera eccetera, però possiamo non dirlo? So se hai sentito che lui dice: ma come sono vestiti alcuni di questi? Hello, è una cena di stato, che poi è stata una delle critiche perché non erano vestiti giusti, e qualcuno ha criticato in rete, caso strano, critiche anche stavolta, però i vestiti delle due first lady erano bellissimi, mi sono piaciuti entrambi molto. Cosa daresti? A me piace una volta partecipare a uno state dinner, come ti vestiresti? Non lo maglietta. So, io farei come ha fatto la mitica Bebe Vio, che ha detto, mi hanno invitato, all'inizio non ci credevo, poi ci ho creduto, ho detto: sai cosa faccio? Telefono, e dico, ha telefonato a Dior, cosa mi metto, ragazzi? Qua devo fare una roba di cui non so niente. E ha fatto il selfie con Obama. Allora, lei ha fatto il selfie con Obama, è stata simpaticissima, poi quando ha mostrato il vestito e stava per partire, ha postato, secondo me in maniera irresistibile, ha scritto: mi metto le gambe col tacco. E una ragazza che dice: ma lei è straordinaria. Grande campionessa. Tu dici: ma su di lei non si potrebbero mai fare polemiche. No, noi siamo il paese, il paese dei guelfi, degli ghibellini. No, ma ragazzi, io per dirla alta, oppure del Milan e dell'Inter. Ma guarda, mi verrebbero invece delle cose molto più basse da dire. Tipo? Vabbè, ma come. Ma siamo anche un po' il paese dei pirla, dai, scusa, l'ho Marta. Detto. Ma come si fa a scagliarsi contro Bebe Vio, a dire che è una privilegiata? Ma bisogna essere proprio matti. Ma sì, ma poi dopo, a parte che semmai è che è invidia di una cosa, di una storia bella. Ma poi voglio dire, sono campioni dell'italianità di tutti i tipi. Ma poi lei è proprio una campionessa della vita, ma ragazzi, ma sta facendo una cosa... Che però, nessuno deve... però non è, insomma, è stata abbastanza zittita sta polemica. Insomma, però già solo il fatto che a qualcuno venga in mente mi fa venire veramente i nervi. Ma non perché lo c'è so. Un sacco di gente che ha un sacco di tempo libero. Sì, il problema è questo. Il problema è questo. Ne abbiamo ancora per Crozza. Sentire degli Audini. No, perché Crozza? No, perché volevo Crozza questa settimana lo saltiamo. No, questa settimana saltiamo Crozza, dai, okay. Non si può tutte le settimane, però vorrei ricordare il suo fantastico Napalm 51, Napalm 52 che rappresenta esattamente quella roba lì di esattamente quella tempo cosa lì. Libero ai. Troppo tempo libero davanti alla e tastiera. E adesso invece abbiamo adesso abbiamo il traffico, perché tra poco ci troviamo con un argomento molto serio e poi con un'altra pagina molto bella. Giornalisti e giornalisti. Bella questa, giornalisti e giornalisti, a tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta YouTube. In questo momento in cui sappiamo che ci sono delle scosse di terremoto, diventa tutto più preoccupante. Lei se lo augura che condonino una casa come questa che sta praticamente a ridosso della montagna, del Vesuvio, del vulcano? Ma io ci vivo qua, che devo fare? Questo fa capire la differenza che qui in effetti i soldi ne sono stati spesi e quei soldi ci hanno permesso a tutti quanti noi, anche al sottoscritto, di essere ancora vivi. Vede come quanto è stretta la strada. In questa zona c'è stato uno dei più forti terremoti che hanno colpito l'intero pianeta. Sono passati già 2 mesi dal terremoto in centro Italia, poi sono successe mille cose e come sempre l'informazione va veloce, la rete ancora di più, e tendiamo a dimenticarci delle cose, tendiamo a dimenticarci anche delle cose molto gravi che sono successe. E sono questi fatti che rendono sempre più evidente anche l'importanza delle reti all news, perché poi questi fatti vengono seguiti minuto per minuto dai telespettatori grazie appunto a televisioni che scelgono di essere sempre in diretta con l'informazione. E quindi sono molto contenta di parlare di uno speciale a 2 mesi dal terremoto in centro Italia, lunedì 24, un'inchiesta sul rischio sismico in Italia, Sky TG24, la condurrà in studio il direttore Sara Varetto. Buonasera direttore! Buonasera a voi, grazie per la presentazione. No, accetto l'invito con piacere tutte le volte che mi invitate. 2 mesi sono passati, sembra sempre che l'informazione debba appunto correre veloce, inseguire inevitabilmente il presente, ma è indispensabile un momento di riflessione e di inchiesta. Con quale spirito voi siete tornati in quei luoghi dopo 2 mesi? Esatto, noi abbiamo deciso di fare esattamente il contrario rispetto a quella che è la vocazione del nostro canale, che ovviamente è quello di dare tutte le notizie in diretta nel momento in cui accadono, di raccontare dal luogo di dove accadono i fatti, la cronaca di quanto avviene. Questa volta abbiamo scelto, a 2 mesi dal terribile sisma che ha devastato il centro Italia, di fermarci e porci delle domande. Ovvero, noi prendiamo seriamente come paese il rischio sismico. Abbiamo fatto un viaggio per tutto il nostro paese, su e giù per l'Italia siamo andati, raccontando dove si è fatto qualcosa, quindi anche qualche esempio virtuoso. Purtroppo la maggior parte dei casi che abbiamo riscontrato sono invece esempi negativi. In Italia si vive letteralmente alle pendici dei vulcani e sopra le faglie con noncuranza. Se ci pensate, noi siamo i primi al mondo per patrimonio in buona parte artistico e monumentale UNESCO, ma anche una delle nazioni più esposte al rischio sismico. In Europa nessun altro paese nell'ultimo secolo è stato colpito così tanto da scosse distruttive. Ecco, in un caso del genere uno si aspetterebbe che avessimo il chiodo fisso della sicurezza antisismica, e invece è esattamente il contrario. Il 70% degli edifici nelle zone più esposte al rischio sismico non è adeguato, addirittura la popolazione non ha idea di come comportarsi. Gli edifici pubblici, quelli che dovrebbero essere i rifugi in caso di sisma, l'abbiamo visto anche nell'ultimo sisma di Amatrice, sono i primi ad essere dichiarati inagibili o peggio ancora a crollare. Direttore, dopo qualsiasi evento si scatenano sui social le polemiche di qualsiasi tipo, si cercano le responsabilità, le bufale, vero? Poi si passa alla polemica successiva, si passa all'indignazione successiva. In questo il giornalismo cosa può fare? Direi che ancora la televisione è il mezzo principale attraverso il quale gli italiani si informano. Poi attenzione, perché come giustamente avete sottolineato voi, ci sono tante, come dire, polemiche, trend a volte di opinione, bufale sulla rete. Ecco, la professione, il giornalista fa proprio questo, è il tramite, l'interprete, il garante che quello che viene trasmesso, l'inchiesta che si racconta, come nel caso di cui stiamo parlando oggi, ma più in generale quando ti do una notizia, io giornalista l'ho verificata, non l'ho buttata semplicemente su un social media o in rete e l'ho data in pasto poi a qualsiasi interpretazione, a volte anche fuorviante. Direi che quel ruolo di garante della corretta informazione è quella che dovrebbe essere il valore principale, il faro della nostra professione. Noi ogni tanto piace raccontare un po' il backstage delle cose che accadono in televisione oppure alla radio. Allora, giustamente tu, direttore, parlavi della velocità della rete e della velocità di una All News che deve seguire l'attualità. Dall'altra parte, un direttore a un certo punto decide di, come dire, investire forze, chiamare colleghi e dire: beh, adesso voi per un mese invece vi occupate di questa grande inchiesta. Come nasce e come si organizza un'idea del genere? Come l'avete fatto voi per l'Italia Trema? Esattamente quello che hai detto tu, nel senso che partiamo da un'idea, l'abbiamo fatto in passato per le campagne sulla corruzione, sul pubblico spreco o anche sull'alimentazione e la salute, insomma sui temi più disparati, però c'è un tema che crediamo fermamente che ben si sposi con quello che è la nostra linea editoriale. Ci investiamo risorse perché, come dire, dobbiamo staccare, fammi dire, alcuni reporter dalla macchina quotidiana, che per noi è sempre fondamentale, attenzione, il servizio che eroghiamo tutti i giorni, però vogliamo andare oltre, vogliamo trasmettere ai nostri telespettatori il senso di un prodotto editoriale che è anche e soprattutto di approfondimento, che si fa anche interprete delle loro domande e va a cercare le risposte, o perlomeno va a porre le domande che sarebbero quelle dei telespettatori in un modo più approfondito rispetto che quello del rolling news, del modello del telegiornale usuale, non può fare fino in fondo. E quindi c'è proprio una volontà, un desiderio di offrire un contenuto che è diverso, che probabilmente proprio perché, e qui torniamo anche al tema della rete, delle diverse piattaforme, proprio perché non è strettamente legato all'attualità, in realtà è un contenuto che ben poi si spende e si sposa con il nostro sito internet, con i nostri social, perché è un qualcosa che può sopravvivere, può far accendere un dibattito, perché no, è successo anche in passato, anche delle polemiche, però in questo caso è un contenuto che mira a far riflettere e non soltanto tanto ad informare e a raccontare puntualmente quello che accade in Italia e nel mondo, come facciamo tutti i giorni. Sì, anche sulle elezioni americane in questo periodo più o meno state facendo un po' la stessa cosa, no? L'alternanza delle breaking news e delle news con approfondimenti specifici, poi che sia fatto sì. con un giornale concorrente, vabbè, beh, ma noi siamo generosi. L'abbiamo fatto citare, l'abbiamo fatto con la stampa, ma con sì. il Sole abbiamo fatto tante altre ma cose, sì, insomma. Ma infatti... Però ci faceva piacere con la stampa, insomma, anche per quella vocazione che hanno loro importante certo. sugli Salutiamo esteri. Maurizio Molinari, il direttore. È un periodo appunto intenso, elezioni americane, referendum, che per noi è una corsa a ostacoli, perché con la par condicio bisogna sempre stare attenti. Non so se possiamo dire noi in radio la parola referendum. Non possiamo neanche più dire referendum. E quella cosa che succede ai primi di dicembre. Però attenti fossi in voi. Però una domanda ormai... sulla par condicio è da fare, secondo appunto, me. Appunto, Daniele. Come ci si regola? È difficile, direttore Varetti. Credo che tra l'altro in questo caso è ancora più difficile che sì. in passato, perché tra l'altro oggi non è soltanto una questione di perfetta rappresentatività delle forze politiche eccetera, perché poi vengono conteggiate delle cose che sono il tempo di parola, il tempo di immagine, cioè bisogna stare davvero col bilancino, e io non so se quel tipo di conteggio sinceramente sia poi davvero garanzia di un'informazione poi corretta per il telespettatore. Giusto. Cioè nel senso totalmente imparziale. Io mi porrei anche una domanda su questo, forse è anche il momento di riaprire una discussione sul tema della normativa sulla par condicio, anche perché noi siamo una televisione, voi siete radio, avete anche il giornale, tutti siamo sottoposti a queste regole, poi però c'è una zona franca, un porto franco, dove invece che non pagare le tasse non rispettano la par condicio, vale a dire dove può succedere di tutto, perché sappiamo benissimo che poi c'è tutto quell'enorme mondo che sono anche i siti di informazione o anche quelli non di informazione, dove non si deve rispettare alcuna normativa in vista di un appuntamento elettorale, ma sappiamo che il nostro sito, il vostro sito, hanno milioni e milioni di utenti. E c'è quindi un disequilibrio totale. Beh, ad esempio, già so, con la mia sfera di cristallo, prevedo che anche questa volta, quando ci sarà il silenzio elettorale, però ci si chiederà, e allora sui social i candidati possono parlare oppure no? I candidati, certo. In questo caso, invece, diciamo, gli esponenti dei vari schieramenti possono parlare oppure no? Insomma, forse bisogna ripensare un po' allo stato delle cose. Ma anche i siti. Quante volte rispettano il silenzio elettorale? Anche sui sondaggi, ma poi anche i sondaggi, quanti certo, modi ci sono certo, per diffonderli certo, in modo surrettizio, certo. con i giochi di parole o altro. Insomma, forse quella normativa va rivista, perché è legata a un mondo dell'informazione, anche del modo in cui si veicolano le informazioni, che è stato stravolto in pochi anni completamente, e altrove vediamo che le normative sono molto più blande. Perché? Perché si sa che comunque non si può imporre regole di quel tipo vessatorie sulle informazioni da diffondere, quando poi in realtà sai già che un mondo non lo puoi regolamentare e ti sfugge completamente. Forse ci vorrebbe un po' più di equilibrio. Giustissimo. Direttore, allora lunedì sera per un appuntamento con Sky TG24, un'inchiesta a 2 mesi dal terremoto, mi sembra davvero necessario, importante, un bello appuntamento, non mancheremo. Grazie Sara Varetto, grazie al direttore, a presto. Grazie a voi, a presto e buon lavoro. Adesso è il momento di una breve pausa, poi ci troviamo tra poco con... C'è già gente? Sì, c'è già Paolo. Diventava rosso il pulsante. Non l'hai fatto arrossire. Pausa, tra poco. Radio Tube. Lui chi è? È un altro uomo che è impazzito per te. Penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti come un pazzo, questo è completamente il mio disco del momento. Non so per Daniele Bellasio, ho l'impressione di sì. Perché lui mi manda le mail con scritto solo i titoli delle canzoni. Ti mando Dalla strada alle stelle. Sì, sì. Tu mi hai mandato Disperato. Sì, perché quando tu leggi una mail con scritto Disperato, dici oddio, ci sarà qualcosa che non va. Dalla strada alle stelle. No, io ti avevo mandato L'ultimo grido della notte e Sbagliare a vivere. Abbiamo mandato Completamente. Perché si intitola Completamente il disco. Sold out, sì. Completamente sold out. Poi sentiremo anche Sold out. Quindi abbiamo loro qui? Sono la Bans del momento, sì. Subito altissimi in classifica appena uscito. I The Giornalisti. Tutto attaccato. E poi spiegheremo subito anche perché. Abbiamo la mente, il cuore e la penna dei The Giornalisti. La voce, il corpo. Tommaso Paradiso. Ciao Tommaso. Buongiorno a tutti. Ma lo sai che mi sono un po' commosso? Perché siete preparatissimi. Cavolo. No, ma perché è una settimana. Cioè, dei giornalisti tutto attaccato non lo dicevo io dal 2011. Ma guarda che io ero. T'ho detto, ero al Magnolia. Poco prima glielo detto. Ero al Magnolia un anno fa. Citiamo anche Marco Antonio e Marco, che sono i tuoi due compagni di avventura e di sventura. Diciamolo subito perché questo The Giornalisti. Ecco, perché brava. Il fatto che voi siate dentro il Sole 24 Ore, che magari è un po' un posto. Infatti mi sento strano. A casa tantissimo, ecco. Cioè, chiamo tutti ciao collega, capito? Sì, mi riconosco. Sono un giornalista? No, ma il nome lo sai perché? Perché in realtà la questione è molto semplice. Siccome non si usa più la congiunzione siccome. Comunque, sì, però bella. Sì, siccome abbiamo dei testi molto semplici, cioè che non è che devi andare lì a trovare la grande interpretazione, no? Non è che devi andare a studiare per trovare il significato nascosto, sono molto aperti. Abbiamo pensato, è come se leggessi quasi un articolo di giornale, allora ci siamo chiamati dei giornalisti. Ah, bello! Ma no, perché io in rete avevo trovato anche che era nato in concomitanza con alcune proteste, non lo so come mai. Nein. Perché in rete si trovano anche le cose sbagliate, ho detto boh, chissà che cosa. E allora perché completamente? Perché completamente è sold out. Completamente perché se tu o se voi passaste una settimana con me vi fareste le orecchie piene di completamente, perché è l'avverbio che io di cui straabuso proprio, capito? Quindi ma io e tutto lo staff ormai intorno ai giornalisti e poi si è allargato anche agli amici, anche ce l'abbiamo qua un po' di staff silente, ma ce l'abbiamo ai VIP del mondo silente. Dello spettacolo ormai io sono mi mandano le note vocali sono completamente grande E questo, e poi il titolo è un po' ironico perché sold out sembrerebbe una cosa spocchiosa chiamare un disco completamente sold out, ma non lo è, perché poi sold out parla di un ipotetico funerale, ovvero il mio, cioè che me lo immagino così con questa chiesa piena di gente, perché preferisco che il funerale sia sold out che un concerto sia sold out, capito? Perché è molto cristiano come concetto, questa sì, certo, cosa. Cioè, certo. Nel senso, mi sono comportato bene nella vita, sono stato un tenerone, mi vengono a dare l'ultimo saluto, capito? Se ti comporti bene al concerto, veniamo al concerto. Dai, infatti. Fa molto rockstar dire funerale in chiesa, eh? Lo sai? Sì, però io. Allora, non è che io sia. Allora, di formazione sono. Cattolico cristiano, adesso non è che stiamo qua, non è che sono uno va in chiesa, prega, zero. Però sono stato proprio abituato con quei precetti lì, cioè siamo in Italia, non è che posso essere in un'altra religione. No, capito? Ma mi incuriosiva perché appunto non è una cosa... Però certo. sul concetto di sold out tornerei, perché insomma questo disco spacca, cioè questo è il disco in cui diciamo da la critica e gli appassionati più raffinati, boom. No? Sì, speriamo. Ma no, vabbè, dai, Marta. Cioè, no, appena l'abbiamo sentito, sì, abbiamo detto questo è boom. Non c'è una canzone che è brutta. Sì. Daniele scriveva Platino. Platino. Olè, Dani. Adesso non so se vale anche per lo scaricaggio da iTunes. Come funziona tu che sei esperta? No, che adesso uguale, sì, no? Adesso si sommano tutto, anche YouTube si somma per il Platino. Anche gli streaming. Anche gli streaming, si somma tutto, capito? Vabbè, allora ok. Allora è Platino. Disco. Allora è Platino. Vedi che bello, che non è scaramantico, è fighissimo. C'è solo un difetto. Qual è? Da Roma? Calcisco. Ah, no, manco. Della Lazio? È fratello? Gemello? Sei fratello mio laziale? No, no, sono interista, però siamo gemellati. Ah, certo, no, certo. Perché gemellati. Siccome c'è una romanista qua. Però del resto... Vabbè, dai, vedi, il difetto lo dovevo dire. Vabbè. Però a San Lorenzo, tu ho visto che in un'intervista parlavi molto di un locale a San Lorenzo. Io ho due o tre posti a Roma dove vado sempre a cena. Perché non è che poi faccio serate, cose, insomma, la mia cena poi prosegue nel dopo cena, ma sempre a cena, capito? Sì. È una cena lunghissima. E sì, uno sta a San Lorenzo. E San Lorenzo è un po' un posto clou di Roma, no? Sì, anche se questo è molto fighetto. Questo è fighetto diventato? Sì, è diventato un po' fighetto. Ma quel fighetto. È tipo che... l'isola Milano, Marta. Bravo, urca, bravo. Urca. Mannaggia, un disastro. Un disastro. Però mantenendo una super dignità, che ti posso dire, di modernità e di tranquillità. Cioè, quindi non è... Ci si sta bene. Non affronti le difficoltà a San Lorenzo. Non si affrontano le difficoltà a San Lorenzo. Allora, un disco, ti riporto un po' sul disco, sì. Con 11 tracce, testi tosti, parli d'amore come parlerebbe un uomo e parli della vita come parlerebbe un uomo. Cioè io da donna sento proprio... L'uomo. L'uomo. Lasciamo soli. L'uomo che si spoglia. Potete spegnere le luci per favore. No. L'uomo che si spoglia dal punto di vista artistico. Sentimentale poi, no? Sentimentale. Cioè l'abbiamo sentito, tu dici spero di non vederti più per non perdere... L'ultimo briciolo di dignità che mi rimane. Not bad. Sì, ma è così, è proprio così. Poi però alla fine il mio lato... In questo un po' sottone, che comunque a me piace andare sotto a qualcuno. Si sente, Tommaso. E allora mi sono subito rifatto nel verso dopo dicendo spero di vederti ancora per... spero che ci rivedremo ancora, così ti dico tutte le cose in faccia, capito? E perdo poi quel briciolo di dignità che prima non volevo perdere. Invece sì, lo voglio perdere. Bello, sì, perdiamo i bricioli, perdiamo proprio... Se tu vedi il mio WhatsApp alle 2 di notte, calcola che è una scuderia di emoticon di piante. Di emoticon di piante. Come nella canzone. Sì, è vero, però sì. No, è vero però non me ne frega niente, cioè dai, alla fine mi piace dirti le cose, a me va di dirle, perché mi devo tenere, cioè non, sono contrario a questa cosa che mo bisogna fare la strategia di scappare per poi, capito, essere rincorso. Sì, è da sempre, certo. Però basta. Che palle, cioè, basta. Senti, ma tu sei autore di tutto, musica, testi, sì. Anche per gli altri. Sì. E quindi ti senti più autore? Questa è una domanda che abbastanza... Me la passi? Ti senti più autore oppure è tutta un'unica cosa? Come funziona dentro di te, the giornalista? Beh, un po' come la Trinità. The giornalista. Come la Trinità. The giornalista. No. Lui è the giornalista. The giornalista. Che prima, l'ho buttata sulla religione, adesso no. Restiamo sulla religione. No, vabbè. È una cosa che faccio molto con piacere, scrivere canzoni per altri. È una cosa che mi dà una gioia incredibile. Tipo Luca lo stesso, tipo tutti altri pezzi che ho fatto, che adesso stanno dall'editore cercando, no? Che poi se funziona così ci e come si decide sta canzone non è per me, per un altro? Guarda, si organizzano delle sessioni. Ah, ok. Luca lo stesso però fu un'eccezione, perché Luca lo stesso l'ha scritta proprio per me, con un testo diverso ovviamente. Uh-huh. Tommaso lo stesso? No. Quello, parlava di un'altra storia. Poi Luca lo stesso ce l'abbiamo messa proprio perché c'era Luca, capito? Okay. Che poi è intervenuto a ruota, a gamba tesa. E no, quindi no, lo faccio molto volentieri. Cioè lo fai gruppo di decidere cosa va bene per dei giornalisti, cosa meglio lo per... fa l'editore in generale. Ah, okay. Arriva una mail, siamo un gruppo di autori, non siamo tanti in Italia, siamo un gruppo di autori, ci arrivano la stessa mail con degli artisti che ti danno delle reference. Quindi, bello, sì, ci piace il pezzo di questo momento, di questo qui, il pezzo di questo qua, e tu magari ti chiudi con qualcuno di questi autori. Cioè ti si scrive, ecco perché a Sanremo quando adesso presentano i brani di perché si fanno proprio delle sessioni in cui si scrive insieme. E sono molto belle. Sono ma molto esistono belle. Tipo Gronchi Rosa i tuoi provini? Sì, sì, cioè cantati da me. Sì, ci sono. Perché comunque la prima versione la do sempre con la mia voce. Quelle sono. Sì. Poi la sentite cantata da un mostro e dici, ah cavolo, vedi quanto è più bella questa. No, perché invece davvero? A me capita sempre il contrario. Adesso non lo dico neanche sotto tortura. No, di avere sentito la versione di alcuni autori di pezzi poi cantati da altri. Sì, vabbè, insomma, è un bel gioco comunque. Stiamo entrando nella vita di un autore. E invece la veste musicale di Completamente, perché c'è elettronica, c'è un po' di sapore anni 80, un po' vintage, sì. Tanto bello. Sì, ma lo sai qual è il fatto? Che io non è che, perché magari ci dicono, ma qua siete un po' troppo nostalgici, sempre se anni 80, siamo nel 2016, sì, comunque gli strumenti sono quelli. E poi comunque io appena mi alzo la mattina sono così. Cioè, se io prendo un pianoforte qui e faccio un La maggiore e lo fa Fedez, lo stesso accordo suona proprio diverso. Ecco, perché? Perché ognuno è fatto in un certo modo. Bellissimo. E quindi... è come il caffè fatto a Parigi, con l'acqua di Parigi non viene la moca di Napoli. Esatto, come la pasta che non puoi fare gli stessi spaghetti, ma l'acqua è diversa. Stupenda questa. E quindi anche se noi usassimo gli stessi strumenti, il mio disco suonerà malinconico, nostalgico, un po'. È la cifra dell'artista, sì, dai. È quando come tocchi le cose, cioè se c'è gente, no, che butta gli occhiali sul tavolo e quegli occhiali cascano perfetti, no? Vero, vero, verissimo. Tommaso, The Giornalisti, ci troviamo tra poco, una breve pausa, c'è il traffico, poi saremo ancora insieme. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Radio Tube. E torniamo insieme per l'ultimo spicchio di RadioTube, ancora con Tommaso Paradiso, da Giornalisti. Ascolto questa canzone, sfrecciando a 2000 sotto un lampione. Vorrei che il funerale fosse sold out, mentre in chiesa risuona forte ancora la rete. Usi Facebook, abbiamo citato prima Instagram, adesso perché hai scritto che Instagram Stories è la cosa più bella adesso mai inventata. Sì, per me è la cosa più bella, è la gioia della mia giornata, capito? Cioè me la coccolo proprio l'Instagram, le storie di Instagram, presente? Sì, ho visto che mi è comparso un più, sì, però io arrivo un attimo dopo Marta e... No, e quindi praticamente tu premi questa cosa e dovunque stai hai 10 secondi, è tipo Snapchat. Ah, solo 10? Hai 10 secondi, registri, puoi mettere anche una foto e poi si cancellano il giorno dopo queste cose. Cioè facciamo poi un ricordino, io lo pubblico e basta. Capito? Mi piace. Instagram, sapete, io l'ho definito il luogo dell'amore, dove non ci sono gli hater. Vero, no, giustissimo, vero, anche come proprio definizione del social media, è il suo vantaggio. Senti, invece questa foto profilo di Facebook con Leone di Lernia, che non ce la fai a cambiare, non che ce ha detto, non ce la faccio. Se voglio fare un figlio maschio e chiamarlo Leone. Sì, Leone mi è io sempre piaciuto. Io però lo chiamerei Leone di Lernia tutto attaccato. poi quando c'ha 18 anni mi arriva un pizzone giustamente da lui, anche dalla madre forse prima, ma non so, bisogna prima trovare la madre. Una curiosità, ma è vero che a te piacciono molto Vasco Rossi e Antonello Venditti? Sì. Ma soprattutto com'è che assieme moltissimo le due cose? Non lo so, perché sono proprio i miei due riferimenti musicali. Miti mainstream, però. Invece ti voglio chiedere, ancora senso parlare di musica indie? Oh! Ma... No, perché voi, cioè allora, voi The Giornalisti, tu The Giornalista dei The Giornalisti... Sì. Siete stati un po' per anni una delle... I più fighi tra sì, gli indie, ecco. Insomma... Beh, più fighi no, ma ci sono stati. Siamo stati tra quelli che sono andati bene nell'indie, ecco, sì, insieme a tanti altri amici. Poi siamo tutti incredibilmente amici in quel mondo lì, quindi sì. Cioè, mi sembra che possano essere l'inno, e qui ti cito ancora, sì, di una, adesso non voglio dire l'inno di una generazione perché mi ma fa un diciamo po' mondo, di un mondo, di un mondo, cioè l'inno di una generazione fa veramente schifo, però l'hai detto vado a dare, tu Marta, vado che a dare ti possiamo testa, fare, lo so, però mi è venuto, scusate, però volevo dire quella cosa sì. lì in un altro modo, ma non mi è venuto, è vero. È vero, è vero. Lui, secondo me, per esempio, in questo caso Calcutta ancora più di me, perché proprio parla a una generazione ben precisa, però poi non si sa come, il pezzo piace anche agli adulti, cioè sì, certo. a tanti adulti, forse perché il consenso della melodia è molto bello. Ma tipo gli indie a Sanremo lo chiedo io, così non lo chiedi mai, perché gli rubo la domanda. A Sanremo è una delle cose che no, Sanremo, dei giornalisti a Sanremo, Sanremo è ipotesi. La mia visione di Sanremo è questa, è che che Sanremo deve accadere, capito? Deve accadere, cioè ci accade, capito? quindi è come un po' la mela che casca dall'albero quando è matura, quindi non lo devi cercare spasmodico. Beh, il pezzo lo devi mandare, l'altro ieri hanno pubblicato il regolamento, sì, il pezzo va mandato, però magari c'è anche Sanremo che dice io voglio assolutamente la Nannini quest'anno, capito? Cioè quindi magari trovano il pezzo per la Nannini. No, infatti per dire Carlo, se ci sei, a me non dispiace, cioè a me, però vabbè. Niente, l'abbiamo. E quindi e noi quando vediamo, poi lo senti le cose, quindi quando ti arriva già la voce, guarda che quest'anno forse va, cioè ci sarà la casella dell'indie, diciamolo, papale. E allora ti dicono dai, mandami sto pezzo, ecco. Che sono molto, cioè, il terreno è fertile. Intanto, capito? C'è il tour, io ho già il biglietto, l'11 novembre a Milano, giusto? Alcatraz. Grande, sì. Completamente no, soldato. Ho sbagliato la data. Dopo la corrida. No, 17 perché comunque io il biglietto ce l'ho. Lì perché l'11 sì, perché l'11 ci sono i Pooh. Questo me lo ricordo. 17 la reunion. Sì, La reunion. La vuoi fare quella domanda di quella cosa di cui volevi parlare? Di un certo premio Nobel? Ah, giusto, bravo. Cosa ne pensi? No, veramente, perché no. Perché in fondo Bob Dylan è l'indie di 40, quanti anni fa? Sì, 50, di 50 anni 55. Fa, no? E oggi è premiato col Nobel, non si fa trovare, vive ancora un po' da indie indipendente. Che ne pensi? Ma secondo me non è che non si fa trovare perché, sai, per una forma di snobismo oppure per... Cioè, perché è proprio, cioè, non gliene frega niente, cioè, è proprio rincoglionito, ma rincoglionito in senso buono, no? Rincoglionito che... Beh, quindi merita il Nobel, secondo me, proprio sì, per questo. Sì, ma lui sta là, cioè, lui è Bob Dylan, cioè, se a lui vince, non so, l'ho spiegato perfettamente nel film Youth di Sorrentino questa cosa. Cioè, perché tu sei un grande esperto di cinema. Sì, cioè, mi piace, adoro, il cinema, soprattutto italiano, ma... E Youth, hai spiegato? No, è che quando a un certo punto un artista proprio che ha fatto di tutto a fine carriera, ci può arrivare anche la regina a chiedergli di suonare, come succede, no, al protagonista. Ma che, cioè, sono altre cose, le cose importanti, capito? Sono altre cose. A quell'età, dopo una carriera del genere, mi puoi dare il Nobel o mi puoi dare... Cioè, la pelle ormai, hai capito, la pelle ha quella forma lì, non è più modificabile, non interessa più, cioè c'ha le grinze, capito? Come la pelle al sole del maestro di tennis a 70 anni, quello sta là. Bello. Capito? Sì, ma, cioè, ogni... Io adesso faccio fatica per perché ogni fa... Vabbè, solo un po' di parte, però ogni frase dico... Ah, mi si apre uno sportellino. Sì. Bella questa, però segnatela questa del maestro di tennis. Beh, perché è bella, questa è molto bella. Posso dire una cosa? Come viene a cambiarmi la vita? Cioè, lui parla di quando una cosa sta ancora succedendo, ma già ne provi nostalgia. Mannaggia. E quindi io ho ancora qui Tommaso Paradiso e già ma mi manca. Dai. E già mi manca. Che roba. No, è vero. Guarda che è una sensazione che tu hai descritto benissimo. Tu sei lì. Beh, ma la nostalgia è un sentimento già... stupendo. Sì. Molto musicale, peraltro. Sì, ma pare che ho letto, insomma, da qualche parte dove quando ero intelligente studiavo che la malinconia e la nostalgia sono proprio le motrici dell'arte, cioè non c'è un altro sentimento che fa sviluppare l'arte, anche se fai un quadro di gioia, anche se dipingi qualcosa di spettacolare, di immensamente solare, comunque la sostanza rilasciata dal cervello è quella roba malinconica, capito? Cioè proprio pare sia proprio il generatore dell'arte. Senti, c'è stata una critica che ti ha convinto e tu da quel giorno o dal giorno dopo hai detto la seguo perché è giusta questa critica? E... No, perché lo sai perché? Perché mi snaturerei e quindi preferisco continuare a sbagliare a vivere, preferisco continuare nel mio stile, e poi ovviamente a quello non piacerò mai più e a quell'altro piacerò sempre. Che ti devo dire? Tu continua a sbagliare, a vivere, che noi continuiamo a essere fatti di te. Oh, che bello, che meraviglia, completamente sold out. Grazie, grazie. Sei stato proprio bene bene, Tommaso. Grazie. Paradiso, salutaci Marco e Marco Antonio, gli altri due giornalisti. Ciao, tra un po' li vedrò. Ciao ciao ciao. È una questione così senza senso, magari forse un giorno arriverà qualcuno che mi dica cosa fare, qualcuno che sa già come si fa, ma adesso proprio stai perdendo tempo, continuo a vivere come mi va, sbagliare a vivere mi piace un sacco, se vuoi ti spiego io come si fa. Beh ragazzi, che ospitone, che ospitone o che ospitoni, insomma Tommaso Perito giornalisti, giornalista dei giornalisti. E Sara Varetto, secondo me giornalista prima. Tutti giornalisti. Una puntata dedicata ai giornalisti. Esatto, vabbè Daniele, è volata, ringraziamo. Sì. Beh, donne al potere in regia, non Valeria so, Bernardi e Roberta Frisani, poi Cristian Goldoni. Ma l'ho visto meno Cristian. Questa settimana vai e vieni. No, no, ma è sempre stato presente, è decisivo. Con noi Cristian. E quindi l'appuntamento al prossimo sabato. Viva! Ciao!